Che succede a Santoro? Che succede? Cioè lei insomma, dopo questa notizia di ieri, diffusa ieri, sì, è affranta, non gliene frega niente, pensa che sia tutta colpa di Berlusconi? Ma io non sono troppo stupita del fatto che prima o poi si arrivasse a un, diciamo, a uno strappo, anche se secondo me si stanno scrivendo delle cose estremamente corrette e inesatte su quasi tutti i quotidiani. Beh, per esempio questa storia della buona uscita di Santoro mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ci sono giornali che oggi parlavano di 17 milioni di euro, una follia. Cioè lei ha delle cifre esatte, no? Ma no, assolutamente no, non vedo come potrei avercele, però ci sono delle cifre che sono standard quando si interrompe un rapporto di lavoro. E il resto di cui si parla? Calcolate in maniera standard. E il resto di cui si parla, che cos'è? Il contratto per le produzioni successive? Ma sono totali invenzioni, secondo quello che sembra. Perché ci sono molti politici, per esempio, molti politici, mi scusi, ieri, per esempio, hanno detto è uno scandalo che la RAI paghi tutti questi soldi per la buona uscita di Santoro. Secondo lei non sanno di cosa parlano? No, secondo me ci stanno marciando sopra, sanno benissimo di che cosa parlano e come al solito usano le informazioni che vogliono distorcendole per raggiungere i loro obiettivi, altrimenti avrebbero dovuto dire per esempio che ha pure dovuto introdurre quest'anno un quarto break pubblicitario perché fa guadagnare talmente tanti soldi alla RAI e le richieste degli inserzionisti sono talmente alti che la RAI ha chiesto al programma di aggiungere un altro spazio di pubblicità. Ho capito.